punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Scusa, io vi chiedo scusa perché danni sono stati fatti da quelli che portano il mio cognome. Questo mi spiace enormemente. Scusatemi, scusate. Ma noi tre oggi siamo qui a dire ci uniamo e si riparte a testa bassa contro il nemico di sempre, il nemico canaglia, il centralismo romano. Questa è la lotta che abbiamo, poi tutto il resto è di conseguenza. La lotta è quella, è per la libertà della nostra terra. Senza dubbio la settimana di passione della Lega di Umberto Bossi e del triunvirato, dunque Bossi, Calderoli, Maroni soprattutto, ed è proprio Maroni a fine settimana che dice: dopo le pulizie di primavera torniamo a fare politica, basta piangerci addosso, si riparte, tanto più, aggiungiamo noi, che le amministrative sono in vista. Cari ascoltatori, un saluto, un buongiorno da parte mia, da Gigi Donelli, da Valeria Bernardi in regia. Dunque, la settimana raccontata alla radio non può che partire dall'intervento del senatore, era martedì a Bergamo, quindi scuse e anche decisioni di intervento all'interno del movimento. Dunque, la Lega naturalmente, ma parleremo invece nei prossimi minuti anche di molti altri temi che sono quelli legati al mercato del lavoro, all'IMU, al debito e alle difficoltà anche che ha vissuto la borsa italiana, metà settimana la fiammata dello spread, e naturalmente la politica internazionale. Sono molti i contenuti anche questa settimana che cercheremo di raccogliere, di raccontarvi nell'appuntamento del fine settimana dedicato a raccontare la settimana della radio. Punto e a capo. Eccoci qua dunque, ripartiamo dal tema politico della settimana. L'hanno già definito il partito delle scope, riferendosi al modo in cui Roberto Maroni ha invocato, era martedì a Bergamo, pulizia all'interno del partito. Allora cominciamo proprio dalla voce di quello che di fatto si afferma come il nuovo leader della Lega. Ma dobbiamo fare pulizia, dobbiamo, per ripartire, dobbiamo fare pulizia. È intollerabile accettare la violazione del nostro codice morale, del nostro codice dei valori della Lega. Ecco dunque Maroni, l'ex ministro degli interni, che si afferma appunto ai vertici del movimento e che chiede teste, che chiede dimissioni ed espulsioni. Giovedì vertice in via Bellerio e l'esito ci viene raccontato da Raffaella Calandra. La Lega processa se stessa ed espelle dal partito anche Rosy Mauro, oltre al tesoriere, per avvicinarsi con un segnale forte e una faccia nuova al congresso che sceglierà il successore di Umberto Bossi. Ci ha provato fino alla fine a resistere, la nera passione davanti al Consiglio federale ci ha provato ad allontanare quelle accuse di viaggi e lauree pagate coi soldi del partito per sé e per il suo caposcorta che l'ha accompagnata anche ieri. Ci ha provato fino all'ultimo anche il senatore a convincerla alle dimissioni da vicepresidente del Senato, e proprio per la sua disobbedienza al partito, si legge in una nota, è stata espulsa. Anche se per la diretta interessata è il rancore che ha prevalso sulla verità. Credo che abbiano voluto un capro espiatorio. Si ribella Rosy Mauro, accusando gli ex colleghi di partito di ricatto politico, visto che qualcuno, scrive in una nota, è arrivato a minacciare le dimissioni in mancanza di provvedimenti. È stato soprattutto Maroni a chiedere da subito una pulizia radicale, mentre lo stesso senatore si è detto pronto a rimborsare la Lega se si accerterà che qualcuno dei suoi familiari ha preso soldi. Sul conto del figlio Renzo per ora non è stato preso alcun provvedimento, ma è all'insegna della linea dura che il carroccio vuole arrivare al congresso che il 30 giugno sceglierà il nuovo leader. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore.

leggiamo in un comunicato della Presidenza del Consiglio, pur seguendo con attenzione l'evoluzione dello spread, evita commenti. Ne parlerà invece mercoledì il Ministro dello Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera. La riforma non c'entra, i mercati non sono delusi dalle nuove norme sul mercato del lavoro. Per il Ministro dello Sviluppo Economico Passera non c'è nessuna connessione tra la crescita dello spread e un presunto indebolimento della riforma. Le ragioni sono da ricercare altrove. Le due cose fondamentali si chiamano Germania e Spagna, si sono aggiunti dati americani e cinesi non buoni, che però di per sé non avrebbero cambiato l'umore. Dobbiamo fare in modo che l'Europa fino in fondo faccia la scelta di garantire se stessa. Passera interviene al forum sull'agenda digitale italiana organizzato da Confindustria Digitale. Dobbiamo accelerare tutto ciò che spinge la crescita, riforme, interventi, anche cantieri, dice il ministro, annunciando l'arrivo di una task force governativa che si occuperà di elaborare proposte per stimolare la creazione e la crescita di nuove aziende digitali guidate dai giovani. Proposte che andranno a confluire nel pacchetto Digitalia che il governo varerà entro giugno e dove ci saranno misure amministrative, fiscali e di semplificazione burocratica per favorire la digitalizzazione delle imprese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Con il proseguire della settimana, già giovedì le tensioni si attenuano, il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto ai Bund della Germania cala al di sotto dei 360 punti base, ma ovviamente l'attenzione, l'allerta resta presente. Bene, con questa notizia ci lasciamo per qualche minuto, poi ripartiamo dalla pagina internazionale, in particolare da una settimana che ha visto la liberazione di uno degli ostaggi italiani, ma senza mai dimenticare, ancora 9 sono gli italiani rapiti nel mondo. Punto e a capo. Rieccoci dunque, partendo dagli italiani che sono prigionieri, sono ancora 9 in questa settimana che registra, per fortuna, una buona notizia. Paolo Bosusco torna in libertà. Il servizio di Alessandra Schepisi. È libero Paolo Bosusco e mentre si gode la sua libertà, il pensiero non può non andare agli altri 9 italiani ancora sotto sequestro in diverse zone del mondo, dal Pakistan alle aree desertiche dell'Africa occidentale alle coste dell'Oman. Del resto, ieri, anche il ministro degli esteri Giulio Terzi, dopo aver espresso soddisfazione per il rilascio dell'operatore turistico, ha invitato a proseguire con determinazione il lavoro per assicurare la liberazione di coloro che sono ancora ostaggio dei rapitori. Si tratta principalmente di gruppi terroristici come Al-Qaeda nel Maghreb, i Boko Haram nigeriani, gli Al-Shabaab somali o i sedicenti talebani attivi nelle zone di confine afghano-pakistane. E allora si aspetta ancora la liberazione di Rossella Urru, 30 anni, la cooperante sarda rapita nel sud dell'Algeria in ottobre, scomparsa tra le dune del Sahara. Nelle settimane scorse si diffuse la notizia, poi smentita, di una sua liberazione. E nella stessa zona del suo sequestro venne rapita nel febbraio 2011 anche la turista fiorentina Maria Sandra Mariani, 53 anni, l'ostaggio da più tempo nelle mani dei rapitori. E si aspetta anche la liberazione di Giovanni Loporto, il cooperante siciliano catturato lo scorso 19 gennaio con un collega tedesco in Pakistan, così come il ritorno dei 6 italiani della nave Enrico Ievoli, sequestrata dai pirati lo scorso 27 dicembre al largo delle coste dell'Oman. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Altre storie di italiani, questa è la vicenda dei Marò arrestati in India. Stefan De Mistura, sottosegretario agli esteri, ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino. Loro hanno in mano, i nostri militari hanno in mano anche la nave e il fatto che sono laggiù. Quindi la situazione è la seguente: da un punto di vista di principio bisogna non mollare su questo e non molleremo mai, perché in effetti il precedente sulla giurisdizione è pericolosissimo anche per altre nazioni e persino per gli indiani. Dunque noi insistiamo su questo. Dall'altra parte, se non insistessimo, loro andrebbero bene semplicemente trattando i nostri militari, cosa inconcepibile, come se fossero dei criminali, in poche parole, che hanno, a loro detta, sparato a dei pescatori inermi. Quindi il punto è fondamentale. Il secondo fondamentale punto è quello che i militari vengono solo giudicati a casa propria. Non c'è un solo caso nella storia in cui questo non è avvenuto. Come si sblocca però la fermezza dell'India, che su questo dice non vogliamo sentire ragioni? Cioè, queste sono le ragioni dell'Italia, ma le ripeto la domanda, quale elemento scatenante può far suscitare un elemento di novità che sblocchi questa situazione? Il tutto non è l'India, ma è il Kerala. Il Kerala, certo. Ha una situazione particolarmente complessa, con 3 milioni di pescatori, di cui 28 sono morti in incidenti precedenti a quello che potrebbe aver coinvolto i nostri marò, e 2 votano e sono poveri e sono anche arrabbiati. Di conseguenza il governo del Kerala è particolarmente attento a voler usare questo esempio come un esempio eclatante. Questo a parte, la risposta alla sua domanda è fermezza, determinazione da parte nostra, uso di pressione internazionale e dare un po' di tempo al meccanismo indiano nel quale purtroppo siamo entrati, visto che la nave ha deciso di entrare in quella rada. Punto e a capo. Trieste, addio, un altro storico pezzo dell'industria italiana e di Trieste, lascia, se ne va, si trasferisce all'estero. Sentiamo il servizio di Marta Cagnola. Parla pure, Ugo. Lo Stock è un brand favoloso. Stock, quando vince la tradizione. Stavolta invece la tradizione ha perso. Non era italiana da anni la distilleria triestina che tutta l'Italia aveva iniziato ad amare con Carosello, ma almeno italiana era ancora la produzione Stock, che ora invece se ne va in Repubblica Ceca. Stock 84. Per gente che si vuole bene. La storia della Stock di Trieste inizia nel 1884 con il 18enne di origine dalmata Lionello Stock e il suo socio Carlo Camis che aprono una piccola distilleria che, come accade per tante industrie italiane, diventa sempre più grande e in fretta e conquista mercati su mercati. La fortuna grazie ai prodotti, ma anche grazie al boom economico e alla pubblicità che rende per la prima volta i marchi riconoscibili. Un brandy? Quale? Un brandy qualunque. Ora. Perché? Perché chi se ne intende chiede Stock. Riconoscibile il marchio Stock è riconosciuto da sempre come italiano, anche se era già stato acquisito nel 1995 dalla tedesca Eckes AG e nel 2007 dal fondo americano Oaktree Capital Management. Riconosciuto come italiano come tanti altri marchi dell'epoca di Carosello e del boom, che non lo sono più. Wells, chi lo desidera secco chiede uno Stock 84. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tradizione svedese con produzione italiana. Una buona notizia sul fronte dei marchi storici, ormai si può ben dire, arriva da IKEA. E chiude l'acqua. Comportarsi bene in una cucina IKEA è più naturale. Anche perché una cucina su tre che il gigante svedese vende nel mondo è prodotta in Italia. A pochi giorni dal via a Milano del Salone del Mobile 2012 arriva la buona notizia che IKEA per i suoi prodotti fa affidamento sul nostro paese a tal punto da trasferire qui alcune produzioni attualmente in Asia. Avete sentito bene, IKEA va controcorrente e crede in noi. La di Italia, Lars Peterson, al microfono di Sebastiano Barisoni. Abbiamo scelto Italia perché abbiamo una bella esperienza con produttori italiani, la qualità e la competenza, il ristretto intorno a un fornitore italiano è molto molto buona, il know-how molto profonda della produzione, il basso numero di reclami, poco difetti. E questo nonostante la brutta esperienza vissuta in Toscana, nel Pisano, dove IKEA avrebbe voluto aprire un nuovo stabilimento, salvo dover aspettare per 6 anni il via libera dalle autorità locali. Siccome ogni pazienza ha un limite, l'anno scorso la rinuncia. Era un progetto da 70 milioni e 350 posti di lavoro, ma è acqua passata e resta il fatto che IKEA compra in Italia più di quanto vende nei suoi negozi nella penisola, che acquista da noi l'8% dei suoi mobili e addirittura il 34% se si considerano solo le cucine. La ricaduta occupazionale è stimabile attorno ai 2.500 posti di lavoro e se a questi si sommano i 6.600 dipendenti della rete commerciale e l'indotto generato dai punti vendita, si arriva a circa 11.000 occupati. E l'articolo 18? Non facciamo un caso sull'articolo 18 e noi stiamo più lavorando sulle persone che abbiamo già, stiamo fra l'altro assumendo persone, preoccupiamoci più di avere le persone attuali nel posto giusto al momento giusto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo.

E noi ripartiamo invece da un viaggio che per mesi di fatto ha impegnato la nostra Valentina Furlanetto a esplorare il nostro paese sommerso. I libri contabili ce li hanno rubati. Questa è la scusa con la quale due imprenditori che commercializzano computer nella provincia di Frosinone si giustificavano davanti ai finanzieri che volevano controllare conti e ricevute. E per essere creduti mostravano loro anche due denunce di furto. Peccato che le denunce fossero fittizie. In realtà le due società tentavano di nascondere un'evasione di 58 milioni di euro, portata avanti ancora una volta con il meccanismo delle frodi carosello, attraverso il quale le società evadono l'IVA passando fittiziamente la merce da società a società. Una frode diffusa, come spiega il colonnello Roberto Piccinini. In Italia è molto frequente e colpisce in particolare alcuni settori nei quali è molto importante riuscire ad avere una concorrenzialità spiccata. Lo sono per esempio i prodotti hi-fi, lo sono per esempio i prodotti di computer e lo sono per esempio le autovetture. Ancora una volta quindi l'evasione colpisce le casse dello Stato, ma anche e pesantemente la concorrenza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri dunque l'ultimo appuntamento con il paese sommerso. Su questo il commento del direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. Oggi va in onda l'ultima puntata della rubrica Il paese sommerso, storie di ordinaria evasione fiscale. L'esordio è stato a metà settembre, quando abbiamo deciso di accendere i riflettori su una realtà ormai insostenibile. Le tasse in Italia le pagano soltanto gli imprenditori onesti, lavoratori dipendenti e pensionati. L'evasione fiscale è la regola o quasi, certamente non l'eccezione. Lo abbiamo fatto sostenendo che era arrivato il momento di voltare pagina e nei mesi successivi abbiamo preso atto con soddisfazione che il governo Monti ha fatto scelte importanti, dando piena copertura alle attività contro gli evasori dell'Agenzia delle Entrate. Il cambiamento di passo è risultato evidente e ci voleva. Per 7 mesi abbiamo continuato, dal lunedì al venerdì, nei giornali radio di maggior ascolto, a raccontare le incredibili storie di un paese che, secondo dati dell'Unione Europea, evade ogni anno tasse per 250-270 miliardi di imponibile, che si traducono in mancati incassi per lo Stato di almeno 100-120 miliardi. Numeri impressionanti, ma nel paese sommerso ci sono altre emergenze che occorre affrontare, adesso o mai più. Occorre togliere ogni alibi agli evasori con una coraggiosa riforma fiscale che tagli le aliquote fiscali, riportandole a livelli sopportabili. Sono necessari interventi drastici e coraggiosi per tagliare la spesa pubblica e battere la criminalità mafiosa. Radio 24 se ne occuperà la settimana prossima, dedicando alle emergenze del paese sommerso anche un Radio Day programmato per venerdì 20 aprile. Punto e a capo. Altre cose da ricordare di questa settimana: giovedì a Essere Benessere, il 7° appuntamento con Mangia con me. Nicoletta Carbone parla, analizza il caso di Stefano, 38 anni, vive a Roma. Filo conduttore della puntata è la pausa pranzo. Allora sentiamo un frammento dei consigli del dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Allora io darei, diciamo, 3 regole molto semplici, che sono anche quelle che applico io a me stesso: avere chiaro in testa prima che cosa andrò a mangiare, cioè sì, evitare di arrivare nel luogo e non sapere che cosa scegliere, pensarci un attimino prima. Essere consapevoli, come abbiamo detto, che il pasto fuori è un po' un compromesso e quindi andare a cercare il ribilanciamento negli altri pasti, evitare i sensi di colpa, perché i sensi di colpa fanno male a tutto, compreso il metabolismo, e cercare di usare più possibile nella pausa pranzo, anche quando siamo fuori, verdure e proteine, perché sono in realtà facili da trovare e funzionano meglio del panino o della pizzetta. La classica insalata con un po' di tonno, mais e delle olive è sicuramente un pasto accettabile e si trova più o meno ovunque. Ancora, e siamo quasi alla conclusione, questa è stata la settimana dei David di Donatello. Allora, visto che oggi non abbiamo in studio Marta Cagnola, vi faccio sentire un passaggio, 2 minuti circa, nel suo spazio mattutino, naturalmente, del GR Spettacoli. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola, parliamo subito dei David di Donatello. Alla fine incassare più di tutti con 16 candidature è Il romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. A sfidarlo Abemus Papam di Nanni Moretti con 15 candidature e This Must Be the Place di Paolo Sorrentino con 14. 8 per Cesare deve morire dei Fratelli Taviani e A terraferma di Emanuele Crialese. I quattro soci istituzionali del Festival del Film di Roma ripieneranno il debito di 2.300.000 euro della Fondazione Cinema per Roma. Ognuno dei quattro soci verserà 550.000 euro. La Regione Lazio erogherà due annualità pregresse pari a oltre 2 milioni di euro. Passiamo ai film in sala. Esce oggi il primo film da regista di Laura Morante. Ciliegine, la storia di Amanda, una cinquantenne che diffida degli uomini. Eppure la Morante l'ha girato insieme agli uomini della sua vita, come ha spiegato a Vincenzo Miglietta. È stato scritto con Daniele Costantini, che è il padre di mia figlia Eugenia. L'adattamento francese è stato scritto dal padre di mia figlia Agnese, e il quale interpreta anche il ruolo dello psicanalista di Antoine, che è il protagonista maschile, Francesco, mio marito, Gian Matteo, diciamo il responsabile della coproduzione italiana. Fino a domenica nella sede del Sole 24 Ore di Milano la nuova edizione di Arte Accessibile. Tra i protagonisti la videoartista austriaca Bärbel Neubauer. Non è facile spiegare la mia opera, perché è fatta più che altro di immagini, una serie di metamorfosi di forme e colori che dialogano con la musica. Ognuno può immaginare qualcosa di figurativo in base alla propria fantasia. Il film è basato sui frattali, qualcosa di molto complicato, certo, ma per lo spettatore deve essere solo un piacere. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata. E per GR Spettacoli è tutto, ricordo ogni mattina l'appuntamento con Marta Cagnola che poi si rinnova nel fine settimana, ma è tutto anche per noi con Punto e a Capo, Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono e naturalmente come di consueto a quest'ora si avvicina invece l'appuntamento con l'Europa, anzi con l'altra Europa, condotto da Federico Taddia. Tutto questo dopo gli aggiornamenti di GR24. Per quanto mi riguarda non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana, darvi appuntamento con Punto e a Capo sabato prossimo intorno alle 9:10 circa. Allora a presto, buon fine settimana a tutti voi.